pomeriggio caldo d'estate. Ricordo le risate, le prime reppate, rime un po' forzate. Due pivelli in cameretta a registrare su cassetta. Il mondo ci sembrava grande, crescevamo in fretta. Mezz'oretta e via per le vie del paese, a provarci con le tipe senza aver troppe pretese. Poco dopo uno dei due si trasferì più in là. La città era troppo grande per due come noi a quell'età, e ci sta che ci si perda un po'. Cambiavi un numero ogni mese, io che non capivo, però sentivo che non eri più lo stesso e non potevo farci niente. Le distanze sono ancora più vaste se non ci si sente. È stupefacente come cambia un adolescente, come si finisce in certe strade con certa gente. È stupefacente come la sostanza che si prende, merce cara, e per comprarla la si vende al migliore offerente. Me lo dissi anche tu, io non immaginavo, non ti avrei rivisto più. Avevi perso 10 kg, il tuo aspetto era cambiato, eri cresciuto sì, ma il tuo viso era segnato. Quando mi chiamasti per vederci in agosto, ero fuori città, ma ci saremo visti ad ogni costo. Quando tornai non ebbi tua notizia, c'eri dentro fino al collo, avevi contro la giustizia. Dove sei? Sei con lei? Se la prendi, poi ti butta giù e non ti riprendi. È un breve sali, è un continuo scendi. Pensi a tutto buio intorno, pensi a quando farà giorno. Dipende da quanto dipendi, ma se non ti arrendi, anche se fa male ti difendi. Quando ci ricadi e tocchi il fondo, pensi c'è una sola via, quella del non ritorno. Ora è tutto buio e penso al tuo sorriso, lo vedo splendere come quel giorno al mare, anch'io sorrido. Perché nessuno si è dimenticato che persona eri, ma nessuno sa dove cercarti. Ho chiesto in giro e credi che mi han detto lascia stare, quello è in brutti giri. Han detto chi lo sa, forse a rubare motorini. Andate a fare in culo, non me ne frega niente. Vorrei farti capire che io però ti penso sempre, ma non puoi sentirmi neanche se gridassi. La mia voce non può entrare in quella cella di Marassi. Ancora ora 3 anni di purgatorio a separarci, non ne parlo ad altri, non faccio che pensarci. E per sfogarmi scrivo queste rime come fossi ancora qua, come la prima volta insieme 8 anni fa. Fratelli non di sangue ma di mentalità, insieme a basket a provare gli alley up. Come la palla va e ondeggia sul canestro, sei caduto dentro anche tu senza un pretesto, rimbalzando un po' sul ferro ma infine entrando. Nemmeno tu sapevi dove ti stavi cacciando. Queste sono le parole che ti ho scritto, non ti dico cosa devi fare, non ho il diritto. Se passi e poi la incontri, cammina dritto. Quando chiama il desiderio, fallo stare zitto. Dove sei? Sei con lei? Se la prendi, poi ti butta giù e non ti riprendi. È un breve sali, è un continuo scendi. Pensi a tutto buio intorno, pensi a quando farà giorno. Dipende da quanto dipendi, ma se non ti arrendi, anche se fa male ti difendi. Quando ci ricadi e tocchi il fondo, pensi c'è una sola via, quella del non ritorno. Dove sei? Sei con lei? Se la prendi, poi ti butta giù e non ti riprendi. È un breve sali, è un continuo scendi. Pensi a tutto buio intorno, pensi a quando farà giorno. Dipende da quanto dipendi, ma se non ti arrendi, anche se fa male ti difendi. Quando ci ricadi e tocchi il fondo, pensi c'è una sola via, quella del non ritorno.